Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità dal punto di vista degli animali non umani. È la puntata numero 555 e ci occuperemo di orsi liberi e di giovani rapaci, di politici poco illuminati, di un'Italia desertificata e colpita dalle inondazioni. Parleremo anche di corride e ci spingeremo fino in Africa. Il tutto con la musica scelta da Giuseppe Coco e un'incursione in ambito culinario grazie a Gabriele Pallone. Ormai è una leggenda. Così il ministro per l'ambiente Sergio Costa aveva commentato nell'agosto scorso la notizia riguardante M49, l'orso da lui stesso ribattezzato Papillon, protagonista di ben due evasioni dal recinto in cui era stato rinchiuso. Papillon, braccato dai forestali e inseguito da un'ordinanza di cattura aperta all'ipotesi dell'abbattimento, quel giorno si era liberato del radiocollare, dimostrando, scriveva il ministro in un messaggio, la prorompente voglia e la passione di vivere libero e in natura. Ora che Papillon è di nuovo prigioniero, catturato grazie a una trappola, il ministro non smette di occuparsi di lui. Sapere che Papillon è chiuso in una gabbia fa male, ha detto. Nei suoi mesi di ritrovata libertà non ha mostrato pericolosità verso l'uomo. Ha cercato cibo, come è giusto che sia. Poteva essere radiocollarato nuovamente e seguito a distanza. Invece Papillon è stato arrestato e così la lunga sfida fra l'orso e le autorità politiche locali è ancora aperta e potrebbe presto giocarsi però su uno scenario più allargato. Costa intanto ha annunciato un'ispezione al recinto del Casteller, l'area verde nei pressi di Trento adibita a prigione per orsi, dove Papillon è detenuto insieme con altri due plantigradi. Il ministro sta anche lavorando a una soluzione che salvi gli animali e superi le resistenze politiche della provincia autonoma trentina. Costa ha scritto ai presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia affinché si possa estendere ai territori da loro amministrati il progetto Life Ursus, finora limitato al Trentino. Costa con questo gesto non intende avallare l'ipotesi sostenuta dalla provincia trentina che vi sia nell'area un sovrannumero di orsi. Attualmente si parla di circa un centinaio di esemplari. Il ministro, piuttosto, punta a raggiungere l'obiettivo di ricreare una continuità ecologica con le popolazioni di orsi nei Balcani. Da più parti, dice Costa in una dichiarazione, ci chiedono una valutazione per ampliare l'areale di presenza di questo mammifero, favorendo l'espansione degli orsi in luoghi con caratteristiche ambientali idonee per assicurare la persistenza a lungo termine della specie nel nostro pianeta. L'iniziativa di Costa è impegnativa ma sicuramente promettente ed è stata ben accolta dalle associazioni animaliste. La LAV chiede però che la verifica sul Casteller tenga conto di parametri etologici e medico-veterinari. Se così sarà, dice la Lega anti-vivisezione, la verifica non potrà che dimostrare che quell'area, giunta ormai alla sua capienza massima, è del tutto inadatta a ospitare ben tre orsi, i quali hanno a disposizione pochissimi metri lineari nei quali spostarsi, mentre è noto che in natura possono percorrere più di 20 km al giorno. Il caso Papillon, insomma, è tutt'altro che chiuso, come resta aperta la vicenda riguardante JJ4, oggetto a sua volta di un'ordinanza di cattura firmata da Maurizio Fugatti, il presidente della provincia di Trento. Ebbene, il TAR locale, accogliendo il ricorso di EMPA e OIPA, ha sospeso l'ordinanza. L'orsa madre di due cuccioli aveva incontrato e ferito in un bosco i due cacciatori e la sua condotta era stata giudicata da Fugatti pericolosa e meritevole di condanna a morte, ma questa ordinanza era già stata bocciata dal TAR, mentre gli esperti avevano osservato che l'orsa aveva agito per proteggere i suoi cuccioli e in modo tutto sommato moderato, visto che avrebbe potuto arrecare danni ben più gravi ai due escursionisti. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Cosa concretamente intendiamo quando parliamo di cambiamenti climatici? Quali fatti, quali eventi e soprattutto quando e dove? Un aiuto a capire meglio, senza cadere nella suggestione o nell'iperbole, arriva dal rapporto sull'Italia stilato dai ricercatori del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Lo scenario prefigurato da questo rapporto è impressionante. Dobbiamo immaginare di qui alla fine del secolo, quando quindi saranno ancora in vita i bambini più piccoli oggi fra noi, 5 gradi in più di temperatura, la riduzione del 40% della portata dei fiumi, temperature estive costantemente attorno ai 40 gradi di massima soprattutto al sud, un aumento degli incendi e della loro estensione geografica, città esposte a enormi ondate di calore e agli effetti di eventi atmosferici estremi, un sensibile calo delle precipitazioni, con tutto ciò che ne consegue. Per esempio, un'enorme crisi dell'agricoltura, che dovrebbe riorganizzarsi radicalmente, con l'abbandono di vaste aree produttive nel sud, il loro spostamento al nord, la ridefinizione dei sistemi di irrigazione, e così via. Questo scenario è stato definito immaginando un quadro pessimistico, cioè, spiegano i ricercatori, con uno sviluppo economico analogo all'attuale. In alternativa, per immaginare un'Italia ancora vivibile, servirebbe un radicale cambiamento di rotta, una revisione profonda del modello di sviluppo. Ma sappiamo che niente del genere è all'ordine del giorno nel discorso pubblico e nell'agenda politica, per cui l'ipotesi di uno sviluppo economico analogo all'attuale è decisamente la più realistica. Ne consegue che anche i giovani e gli adulti di oggi, senza arrivare allo scenario di fine secolo, faranno in tempo a vedere un paese sottoposto a uno stress climatico finora sconosciuto, se non per accenni. Se allarghiamo lo sguardo e dall'Italia passiamo a una visione d'insieme sulla Terra, ecco il rapporto sulla vita nel pianeta del WWF, una relazione di ricerca che anno dopo anno tiene d'occhio 4.392 specie e 20.811 popolazioni animali, monitorando così lo stato di salute della biodiversità. Il dato di sintesi anche qui è allarmante. Dal 1970 a oggi, dunque in mezzo secolo, abbiamo perso nel mondo oltre 2/3, il 68%, delle popolazioni di animali selvatici. È un'ecatombe epocale dovuta alla perdita e al degrado degli habitat naturali, un fenomeno, dice il WWF, legato in larga misura ai sistemi di produzione del cibo, quindi l'agricoltura industriale per l'alimentazione umana e degli animali di allevamento. E non se la passa meglio la flora, anch'essa sotto attacco. Il rischio di estinzione delle piante, dice il WWF, è attualmente paragonabile a quello dei mammiferi e superiore a quello degli uccelli. Il WWF nel suo rapporto si augura che un quadro così grave sia preso in considerazione da tutte le organizzazioni internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite, impegnate a promuovere gli accordi di Parigi sul clima e l'agenda per uno sviluppo sostenibile. Marco Lambertini, direttore generale del WWF, nell'introduzione al rapporto scrive che la pandemia Covid-19 è una chiara manifestazione del nostro rapporto con la natura, ormai spezzato, ed evidenzia la profonda interconnessione fra la salute della popolazione umana e il pianeta. Il WWF indica anche le direttrici di un possibile cambiamento. Al centro, sostiene, vi dovrebbe essere una revisione dei sistemi di produzione e commercio degli alimenti, in modo da ridurre gli sprechi a favore di diete più sane e rispettose dell'ambiente. In altri termini, avremo bisogno di un'agricoltura meno inquinante e di una drastica riduzione dei consumi di proteine animali. Insomma, le conoscenze ci sono, gli scenari sono chiari, la pandemia ha aggiunto un drammatico messaggio di urgenza a un quadro già definito. Ma la domanda di fondo resta inevasa. Basterà? Basterà tutto ciò per spingere i governi, le imprese, le grandi organizzazioni ad agire nella direzione giusta? La risposta, ci pare, al momento è decisamente no, e servirebbe quindi una enorme, decisa spinta dal basso, dalle popolazioni, per cambiare veramente rotta. After the world we all see, get my answers from the machine. You could put on the line so I get some peace of mind. Can't keep trying to deny, got no more strength to keep up the fight. Hanging on to hear the ring, all I get is a machine. Toot toot, toot toot, toot toot, toot toot, toot toot. After the world we all see, I get my answers from a machine. You could just put me on the line so I can get peace of mind. After the world we all see, I get my answers from a machine. You put me on the line so I'll get some peace of mind. I can't keep trying to deny. Got no more strength to keep up the fight. Hanging on to hear the ring. All I get is a machine. Choo choo. Choo choo. Toot toot, toot toot, toot toot. After the world we'll see, get my answers from a machine. You could just put me on the line so I get a peace of mind. I can't keep trying to deny. No more strength to keep up the fight. Il Covid, che tanto ci angustia, come ben sappiamo, è frutto di uno spillover, cioè un salto di specie del coronavirus da animali selvatici all'uomo. Non c'è spillover invece nel caso della peste suina africana, che non minaccia gli umani, ma è invece letale per i suini e potrebbe contagiare i numerosi allevamenti di maiale europei. I virus corrono, passano da un paese all'altro, da un continente all'altro. Questa è l'esperienza che stiamo facendo negli ultimi anni. La peste suina africana è stata infatti rilevata per la prima volta in Germania, come ha reso noto a Berlino la ministra dell'agricoltura Julia Klöckner. Il caso è stato registrato in un cinghiale nel Brandeburgo. Purtroppo il sospetto è stato confermato, ha spiegato la ministra, ricordando che si tratta di una malattia che non mette a rischio le persone umane e che anche l'eventuale consumo di carne di animali contagiati non rappresenta un rischio per i consumatori. La scoperta del cinghiale morto per la peste africana è avvenuta nella parte orientale del Land, in un territorio ai confini con la Polonia. E adesso, come si legge in un lancio dell'agenzia ANSA, ripreso da varie testate, la notizia potrà avere un impatto sull'export della carne di maiale al di fuori dell'Unione Europea. Potrebbe cioè diffondersi il timore di avere a che fare con carne pericolosa, contaminata, nociva per la salute. Per gli addetti ai lavori è uno scenario che preoccupa sotto il profilo economico. Per noi l'ennesimo segnale di quanto sia malato, oltre che ingiusto, il nostro modo di rapportarci con gli altri animali. La corrida è una disciplina, una tradizione, che per alcuni merita di essere celebrata a livello universale, tanto da essere inserita nel cosiddetto patrimonio culturale immateriale dell'umanità, custodito e in qualche modo lodato dall'UNESCO, che è l'agenzia culturale delle Nazioni Unite. La corrida però è una pratica crudele e rifiutata da buona parte della popolazione mondiale, nonostante goda di un certo seguito nella penisola iberica, dove peraltro non mancano le contestazioni. Le tradizioni del resto non sono buone di per sé e quindi non sono automaticamente degne di essere tutelate. Perciò l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, invita ad aderire alla campagna della piattaforma La Tortura No Es Cultura, che ha lanciato un appello alle organizzazioni di tutto il mondo affinché si mobilitino contro la candidatura della corrida come bene culturale immateriale dell'umanità. Ricordiamo, spiega Lempa, che il 15 ottobre 1978 a Parigi, proprio nella sede dell'UNESCO, è stata sottoscritta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, con lo scopo di proporre un codice etico di rispetto verso l'ambiente e verso ogni animale. Dunque, com'è possibile, dice Empa, oggi prendere solo in considerazione di inserire questa usanza barbara che mette al centro la sofferenza e la morte degli animali come bene culturale immateriale dell'umanità? Veramente vogliamo che la nostra cultura sia rappresentata da uno spettacolo che mette in scena il maltrattamento e l'uccisione di un toro? La redazione di Restiamo Animali ovviamente si associa a questa campagna. La settimana scorsa abbiamo parlato delle aquile del Bonelli, 7 esemplari che hanno preso il volo nei cieli di Sardegna, nell'ambito di un piano di reintroduzione nell'isola di questi rapaci. Qualcosa del genere avviene ora in Basilicata. 4 giovani capovaccai sono stati liberati a Matera, nell'ambito del progetto Life Egyptian Vulture. Questa liberazione è per noi un atto di fiducia nel futuro, un modo concreto di contrastare il declino della vita selvatica nel nostro paese, una vita avversata in molti modi, a volte politici come nel caso degli orsi e dei lupi, più spesso, diciamo così, economici, attraverso cioè la distruzione degli habitat in favore di strade, impianti, tecniche culturali distruttive. I 4 capovaccai si chiamano Clint, Birba, Fabio e Zoe e sono rimasti per 5 giorni in una cassa nido collocata nel parco naturale della Murgia Materana, prima di essere liberati. L'operazione è stata curata dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che curerà anche il monitoraggio con l'associazione CERM e Società Biodiversità. Buona fortuna a Clint, Birba, Fabio e Zoe. Alla notizia dei 4 capovaccai liberati in Basilicata è dedicata la ricetta della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, curatore della rubrica etico-gastronomica Il pasto gentile e autore del libro Cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Questa puntata rendiamo omaggio a Matera, la terra dove sono stati liberati i 4 capovaccai. Lo facciamo con una ricetta tradizionale che nasce vegan, la famosa crapiata di Matera, antichissima zuppa di legumi cucinata per celebrare la fine del raccolto. Gli ingredienti per 4 persone sono 50 grammi dei seguenti legumi essiccati: fave, ceci, cicerchie, piselli, fagioli bianchi, fagioli con l'occhio, lenticchie verdi, 150 g di farro, 2 pomodori maturi, 4 patate novelle piccole, una carota, una costa di sedano, una cipolla, dell'olio extravergine di oliva, 2 foglie di alloro, peperoncino e sale. Lasciate tutti i legumi in ammollo in abbondante acqua per un giorno intero. Il giorno successivo scolateli e sciacquate con acqua corrente, quindi mettete tutto in una pentola e coprite con acqua per 3 dita oltre il livello dei legumi. Fate cuocere a fuoco lento per 30 minuti. Nel frattempo lavate bene le patate novelle e tagliatele a tocchetti mantenendo la buccia. Trascorsa mezz'ora unite le patate ai legumi e fate andare ancora per 20 minuti. Intanto pulite la cipolla, il sedano e la carota e tagliateli a tocchetti. Lavate i pomodori e divideteli a metà. Sciacquate il farro e unite il tutto nella pentola, aggiungete anche le foglie di alloro, aggiustate di sale e peperoncino e lasciate cuocere a fuoco lento fino a quando i legumi saranno ben cotti, circa 40 minuti. Una volta cotti, togliete dal fuoco e condite con un filo di olio extravergine di oliva. Servite calda o tiepida, accompagnando con fette di pane casereccio. Chiudiamo con una notizia che arriva dal Kenya e che ci pare nel suo piccolo promettente. Un resort turistico costruito vicino al fiume Mara, che bloccava la migrazione degli Ainu, sarà abbattuto. Il caso aveva attirato l'attenzione dei media keniani e alla fine, come ha informato il senatore locale, l'Edama Ole Kina, è arrivata un'ordinanza governativa di abbattimento della struttura. Il resort per 10 giorni ha bloccato il passaggio degli Ainu. Era una costruzione illegale e tuttavia situata in un posto di solito non battuto dagli Ainu per i loro spostamenti. Le forti piogge però hanno spinto gli animali a spostare la rotta e così hanno trovato sul loro cammino l'imprevisto ostacolo. Ostacolo che sarà subito rimosso. L'Edama Ole Kina ha aggiunto che l'intera zona del fiume Mara sarà mappata e altri eventuali insediamenti illegali saranno anch'essi abbattuti in tempi rapidi. In Kenya, a quanto pare, almeno in questo caso, la politica agisce nella direzione giusta. Questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.